Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Volare. Oh, cantare. Grazie, devo dire a tutti voi sintonizzati su Effetto Notte, date un senso a chi, come me, per esempio, continua a presidiare spazi di informazione, di racconto sul posto di lavoro, come prima di tutto naturalmente donne e uomini del sistema sanitario, forze dell'ordine, ma anche chi lavora nell'autotrasporto, nelle aziende che non chiudono, nei supermercati, nei negozi che restano aperti, e anche a tutte quelle persone di ogni età devo ringraziare, intonate, stonate, alcune anche stonatissime, che continuano a rendere vivi paesi e città cantando dai balconi tutti i giorni. Mi raccomando, resistete suonando, cantando, non vi arrendete e non vi stancate anche di farlo. E naturalmente questo nell'affrontare l'emergenza coronavirus, anche l'OMS ha notato che l'Italia, non solo l'OMS, continua a congratularsi con il nostro paese per il sistema sanitario, per come sta reggendo, per le misure messe in campo, ma anche dice addirittura l'OMS per la coesione sociale. Capite? Stiamo dando l'esempio in tutta Europa e anche nel mondo. Quindi continuiamo così e continuerò naturalmente qui da Radio 24 a fare il punto per voi la sera di tutte le cose più importanti da sapere dall'Italia e dall'estero, con gli approfondimenti con gli ospiti, perché parleremo tra le varie cose della situazione in particolare della Lombardia e di Bergamo, che è molto difficile. Poi ci collegheremo anche con l'estero, con la Francia, dove c'è stato un fuggi-fuggi da Parigi dopo che ieri Macron ha annunciato misure molto stringenti anche per la Francia. Poi gli Stati Uniti, dove Trump pare che improvvisamente stia cambiando idea dopo che ieri sera ha detto finalmente l'epidemia è fuori controllo negli Stati Uniti. Poi naturalmente altri appuntamenti, altri approfondimenti, non vi sto a anticipare tutto, ricordatevi che c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, oppure li potete inviare via SMS e WhatsApp al 349 238 6666 durante il giorno. Se volete alcune anticipazioni c'è il Twitter, che è Roby con la Y linetta bassa Giordano, se no c'è quello della diretta. Partiamo. La pandemia di coronavirus, l'Europa impari dall'Italia, il monito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I contagi nel nostro paese, secondo i dati della Protezione Civile, sono 26.062 i malati in Italia, 2.053 le vittime, 2.941 i guariti. E in Lombardia l'epidemia ancora non rallenta, quasi 7.000 le persone in ospedale e l'ospedale di Bergamo non ha più posti per la terapia intensiva. Nel frattempo la ministra Azzolina, ministra dell'Istruzione, ha detto l'anno scolastico non sarà più lungo. La decisione dell'Unione Europea, chiusura delle frontiere verso l'esterno per 30 giorni. I mercati, chiusura in recupero per le borse in Europa, Madrid è la migliore al 6%, Milano chiude con un più 2,2%. Egitto, Zaki, lo studente egiziano iscritto all'Università di Bologna, arrestato nel paese d'origine, chiede di poter essere liberato per tornare in Italia. Sport, per gli europei di calcio è ufficiale il rinvio, mentre il Comitato Internazionale Olimpico va invece avanti sulle Olimpiadi di Tokyo. Partiamo quindi dalle dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha detto l'Italia è diventata la piattaforma per il know-how in Europa, cioè quella che ormai ha acquisito molte conoscenze da vari punti di vista per quanto riguarda il virus e le misure da prendere, lo ha detto il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Hans Kluge, aggiungendo che il vecchio continente dovrebbe imparare, quindi tutta l'Europa, dall'approccio dell'Italia. E sull'amplificazione dell'uso dei tamponi, nessun cambiamento di rotta da parte dell'OMS, non sono raccomandati screening di massa, specie in epidemia con trasmissione sostenuta come in Italia. Resta fermo però, ha detto oggi in conferenza stampa, durante la conferenza stampa della Protezione Civile, Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto all'OMS, dice resta fermo di fare test su tutti i casi sospetti e tutti i contatti dei casi sospetti. E sono oltre 26.000 in Italia le persone malate, secondo il bollettino pomeridiano della Protezione Civile. Partiamo quindi dal dato generale del nostro paese e poi il punto sulla Lombardia. Sale ancora il numero degli italiani contagiati dal coronavirus. Secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile, i nuovi casi sono 2.989, il totale dei malati sale così a 26.062, cresce anche il numero delle vittime, 345 in più rispetto a lunedì, 2.503 dall'inizio dell'epidemia, ma si registrano anche 192 nuove guarigioni che arrivano a quota 2.941. commissario straordinario Borrelli ha fatto anche il punto sul trasferimento in altre regioni dei pazienti ricoverati negli ospedali lombardi. Il numero dei pazienti complessivamente evacuati dalla Lombardia e distribuiti sugli ospedali delle altre regioni è di 50, con un numero di 3 in più rispetto a ieri. I ministri dei trasporti e della sanità, De Micheli e Speranza, intanto hanno firmato un decreto con il quale si obbliga all'autoisolamento per 14 giorni chiunque rientri in Italia dall'estero, anche in assenza di sintomi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono 16.220 le persone risultate positive al coronavirus in Lombardia, 1.971 in più. Lo ha detto l'assessore regionale al welfare Giulio Gallera in diretta Facebook, aggiungendo che i ricoverati in terapia intensiva sono 879 più 56, mentre il numero dei decessi è 1640, 220 in più. Bergamo e Brescia sono le province più colpite e da più voci arriva l'appello a rispettare le misure di isolamento. I numeri sono ancora molto alti, ha detto Gallera, ma il trend è in rallentamento e sono in arrivo in Lombardia medici e personale sanitario dalla Cina e dagli Stati Uniti. Continua alla corsa contro il tempo per aumentare i posti in terapia intensiva a partire dalla realizzazione dell'ospedale Covid a Fiera Milano. Va reperita la strumentazione, ma diversi presidi sono già arrivati. Sentiamo Gallera. Sono arrivati dalla Protezione Civile 14 respiratori che sono già stati distribuiti nei nostri ospedali, sono arrivate 30 respiratori da subintensiva dalla Cina. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi torneremo sulla situazione in particolare di Bergamo tra poco. La preoccupazione riguarda sempre di più anche le regioni del sud, dove si aspetta per la settimana prossima la situazione più critica. Nel mezzogiorno, al momento è in Campania che si registra il maggior numero di contagi. I casi aumentano, ma come ammette il governatore della Sicilia, sembra un grande set. Nel mezzogiorno così c'è chi ancora, come 12 ragazzi nel napoletano, organizza un picnic e ci sono gli allarmi per l'assenza di presidi sanitari, mentre si allestiscono reparti dedicati in ospedali sia di Napoli che Palermo. In Campania sono 486 i casi, compreso un consigliere comunale di Napoli, mentre nel casertano i contagi si diffondono nei nuclei familiari ampi di due anziani deceduti. Ho decine di persone con la febbre e nessun tampone, è lo sfogo del sindaco di Castiglione in Abruzzo, mentre in Sicilia, dove si aspetta per la prossima settimana la situazione più critica, si intensificano i controlli anche della temperatura sui pochi ingressi consentiti. All'emergenza virus si è aggiunta in Calabria la paura per il terremoto, che non ha fatto danni ma ha portato nella Catanzarese la gente in strada, racconta il capo della Protezione Civile Domenico Pallaria. Magari hanno dormito anche in macchina, mi dicono, però che non ci sono stati assembramenti. C'è l'assenza di attrezzature per la protezione individuale. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sono 1200 persone rientrate in Italia dall'estero nella sola giornata di oggi, lo rendono noto le fonti della Farnesina. In particolare sono rientrati due voli da 186 posti ciascuno dalle Canarie, operati da Neos, un traghetto da Barcellona con circa 230 passeggeri e tre voli all'Italia da Londra per un totale di circa 600 persone, ma avete sentito poco fa anche nel servizio che sarà garantito, viene garantito naturalmente il rientro di tutti gli italiani all'estero, però poi dovranno ovviamente osservare un periodo di quarantena. E poi, a proposito delle sperimentazioni dei farmaci, oggi in conferenza stampa della Protezione Civile, Nicola Magrini, direttore dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ha detto: annunciamo la sperimentazione del tocilizumab, farmaco per artrite reumatoide. I dati preliminari, ha detto, sono promettenti. Lo studio sarà su 330 pazienti e partirà giovedì per valutare l'impatto del farmaco. E tra l'altro, sempre in Italia si sta sperimentando anche un vaccino, dovrebbe cominciare la sperimentazione sugli animali. La notizia di poco fa che vedo in questo momento, un'altra dichiarazione dell'OMS che dice: il rischio che l'epidemia di Covid-19 dopo questa prima fase possa in seguito ripartire c'è, a partire dalla Cina, dove certo non tutta la popolazione è stata colpita. E parliamo adesso del vertice europeo straordinario che si è concluso poco fa, nel quale è stata decisa da parte dei 27 paesi la chiusura delle frontiere verso l'esterno per 30 giorni. E poi nel corso di questa puntata entreremo più nei dettagli. Parliamo adesso della reazione dei mercati, chiusura brillante per le principali borse europee. La migliore è stata Madrid con 5,97%, seguita da Parigi più 2,84%, Londra più 2,79% e Francoforte con più 2%. La crisi scatenata dall'emergenza coronavirus impatterà pesantemente sull'economia e quest'anno porterà a una recessione globale. A prevedere un fosco orizzonte Standard & Poor's, l'agenzia di rating rivede così le stime di crescita globale. Quest'anno ci si fermerà all'1%, tutto al più la crescita mondiale potrà raggiungere l'1,5%, livelli da recessione. Secondo gli economisti di Standard & Poor's, il giro di vite sui contatti fra individui e sui movimenti delle persone comporterà, come in Cina, un collasso della domanda anche negli Stati Uniti e in Europa. Anche Morgan Stanley vede nero e parla di recessione globale per l'anno in corso. I danni innescati dal coronavirus e dalla stretta delle condizioni finanziarie, avverte la banca d'affari, causeranno uno shock materiale all'economia globale e questa volta sarà peggio della recessione globale del 2001. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi è intervenuta poco fa la ministra dell'istruzione Azzolina, che ha detto che l'anno scolastico non sarà più lungo per le forzate assenze di questo periodo d'emergenza. E a proposito della maturità, questa è la sua dichiarazione, dice: l'esame di Stato è uno degli aspetti più delicati, io sto prospettando al Ministero dell'Istruzione diversi scenari in base a quando le scuole si riapriranno, l'esame sarà serio ma terrà in considerazione il momento di emergenza che stiamo vivendo, nelle prossime settimane daremo informazioni. Parliamo della spesa, la spesa sempre molto abbondante del normale in tutti i negozi, lo sappiamo, in particolare in quelli di quartiere e nei piccoli paesi, mentre volano le consegne a domicilio, i cui volumi negli ultimi giorni sono quadruplicati. Gli acquisti al tempo del coronavirus spingono le vendite sotto casa, quindi questo è una specie di riscatto anche dei negozi di quartiere, con un aumento nella media distribuzione nei negozi di alimentari di circa il 50%, con picchi di crescita che salgono fino al 100-120% nei negozi alimentari dei piccoli comuni più isolati. E c'è in arrivo, ci sono in arrivo 50 milioni per assicurare il recupero delle eccedenze alimentari e favorirne la distribuzione gratuita agli indigenti anche durante l'emergenza coronavirus, e lo prevede una norma del decreto Cura Italia, di cui abbiamo parlato ieri, varato ieri dal governo, che incrementa il fondo apposito istituito dal 2012 per finanziare i programmi di distribuzione del cibo attraverso le organizzazioni caritatevoli. E poi l'estero, il governo spagnolo ha annunciato un piano per mobilitare 200 miliardi di euro per far fronte alle conseguenze della crisi economica provocata dall'epidemia di coronavirus. Ne parlavamo ieri con l'editorialista del País, che improvvisamente la Spagna ha preso seriamente il paese che insieme all'Italia ha preso in Europa più seriamente le misure restrittive, un po' naturalmente diciamo mutuandole dal nostro paese. E poi, per parlare di altri paesi, c'è il Brasile, dove nonostante lo stato d'emergenza per l'epidemia di coronavirus decretato negli stati di Rio de Janeiro e San Paolo dei rispettivi governatori, vedono gli abitanti della città di Rio che continuano ad affollare le sue spiagge con la complicità anche delle temperature ancora estive. E si parla anche di paesi che non vengono da un po' di tempo nominati, come la Giordania, quindi Medio Oriente, che dice alla popolazione: restate a casa, ci sono pattuglie di militari agli ingressi delle città, e nel frattempo hanno deciso, proprio per la questione dell'epidemia, di liberare ben 1500 detenuti. Cambiamo argomento, l'appello di Zaki: fatemi uscire il prima possibile da qui, voglio tornare all'università a studiare. L'appello lanciato da Patrick Zaki, lo studente egiziano iscritto all'Ateneo di Bologna, detenuto in patria da ormai un mese e mezzo. Ieri, a causa del coronavirus, è stata rinviata ulteriormente l'udienza sul suo caso. La Commissione europea e il governo americano sono pronti a correre in soccorso delle compagnie aeree, liquidità e prestiti per evitare fallimenti e licenziamenti. Via libera anche alla nazionalizzazione di Alitalia. Le compagnie aeree europee e americane pianificano per i prossimi mesi una riduzione di voli dell'80-90% e, secondo i vertici della IATA, l'associazione delle compagnie aeree, serviranno almeno 200 miliardi di dollari per salvare il settore. A rischio anche le società aeroportuali. Nell'ultima settimana in Italia il calo di passeggeri è stato dell'87%. Le compagnie aeree hanno fatturato lo scorso anno 838 miliardi di dollari con utili netti per 26, ma il blocco dei voli per alcuni mesi può azzerare la cassa, visti i costi fissi per personale e affitto aerei. La Commissione europea ha fatto sapere di essere pronta a collaborare subito con gli Stati membri per salvaguardare il settore, sfruttando la maggiore flessibilità appena prevista da Bruxelles alle regole sugli aiuti di Stato. Via libera anche al sostegno ad Alitalia, dove oltre alla liquidità il decreto legge del governo prevede anche una vera e propria nazionalizzazione. E un via libera agli aiuti alle compagnie aeree è arrivato anche dall'amministrazione Trump. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ah, vi dico anche della chiusura di Wall Street. Wall Street chiude con il Dow Jones in rialzo del 5,17%, il Nasdaq avanza del 6,23% e lo Standard & Poor's 500 mette a segno un progresso del 5,94%. Torniamo invece sulla grande distribuzione, sugli alimentari, per rispondere alle esigenze del personale che lavora nei supermercati e limitare ulteriormente le uscite delle persone. Coop sceglie la chiusura domenicale degli oltre 1100 punti vendita per le prossime due settimane. Lo ha deciso il comitato di crisi dell'insegna della grande distribuzione, che ha anche predisposto, oltre alla distribuzione delle mascherine, una barriera in plexiglass alle casse. Il presidente di Coop Italia, Marco Pedroni, al microfono di Mariluisa Pezzali. Pensiamo che la gente abbia già imparato e quindi che ci sia una buona distribuzione anche nella settimana della possibilità di fare la spesa, evitando quindi alla domenica un ulteriore motivo di uscita di casa. Il secondo motivo molto importante anche questo è che i nostri colleghi vengono da un periodo davvero molto complicato, impegnativo, difficile, stanno facendo un lavoro fantastico e straordinario, quindi abbiamo pensato utile un momento di pausa e di sollievo anche per i nostri dipendenti. Se dovesse essere necessario prolungheremo questo tipo di provvedimento. Io spero che non sia necessario e che si possa tornare gradualmente a una maggiore normalità, però nessuno di noi lo sa. E non so se avete notato in alcune catene molto famose di supermercati che non si possono comprare, ci sono dei cartelli sul materiale che si trova solitamente in cartoleria, pennarelli, matite, penne, quaderni o anche i casalinghi o anche la biancheria intima. Ci sono cartelli che dicono che quella merce non si può vendere, questo per non fare concorrenza sleale ai negozi che in questo momento devono rimanere chiusi. Lo sport: l'UEFA ufficializza il rinvio degli europei di calcio al 2021, stessa sorte per la Coppa America. L'auspicio è quello di concludere i campionati e le coppe per club entro il 30 giugno. Rinviato a settembre per il tennis il Roland Garros, rinviate le classiche del nord di ciclismo. Resistono almeno per il momento invece le Olimpiadi, in programma dal 24 luglio a Tokyo. Il governo giapponese intende continuare i lavori di preparazione e ne parleremo. Se sei casalingo, ami il fuoco del fornello come me. Questo è Bugo che con questa canzone vi invita quindi a essere casalinghi, donne e uomini, a riscoprire il piacere di stare in casa, magari anche di cucinare, di fare qualche faccenda che magari sulla quale a volte si latita. Ci sentiamo tra pochissimo, continuate con i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. One Express, One Express, il pallet Express. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti ricchissimi di informazioni, di notizie, di aggiornamenti con gli ospiti, di aggiornamenti in diretta con le notizie che man mano arrivano. Roberta Giordano sempre con voi in questo presidio antivirus. Questa è un'informazione antivirus nel senso che più avete informazioni e più lo evitate e più state a casa e meglio è. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi, riflessioni oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Carla da Torino dice: rispetto alla nuova autocertificazione posso dichiarare di non essere sottoposta alla quarantena, perché sapete che c'è questa novità, ma come faccio a dichiarare di non essere risultata positiva al virus? Non ho fatto il tampone, potrei essere asintomatica. Carla, però per il momento nella nuova regola che riguarda l'autocertificazione bisogna dichiarare, se lo si dichiara naturalmente onestamente, di non essere sottoposti alla quarantena. Per il momento è questo. Allora, vi ho fatto sentire naturalmente nella prima parte, come ogni giorno, oltre a tutte le altre notizie anche dal mondo, i dati dei contagi in Italia, che ovviamente sono quelli che ci stanno più a cuore, attraverso il bollettino quotidiano della Protezione Civile. Sono complessivamente 26.062 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.989. Il numero complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, ha raggiunto i 31.506, le vittime sono 2.503, l'incremento rispetto a lunedì è di 345, i guariti sono 2.941. E come sapete la Lombardia è la regione più colpita, sono 16.220 le persone risultate positive al coronavirus nella nostra regione, ne ha parlato oggi l'assessore al welfare Gallera, e in Lombardia la situazione è appunto decisamente, come dicevo, più difficile nella provincia di Bergamo, con 3.993 persone contagiate, 233 in più di ieri, sempre attraverso le dichiarazioni dell'assessore Gallera. Segue poi la provincia di Brescia con 3.300 positivi, al terzo posto Milano in Lombardia con positivi 2.326. E oggi è arrivata la notizia che si temeva da tempo per quanto riguarda l'ospedale di Bergamo: non ci sono più letti per la rianimazione, i letti di terapia intensiva riservati ai pazienti ricoverati in gravi condizioni per coronavirus, appunto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. E persino, pensate, questo è un dato terribile ma vi dà la misura della gravità, a Bergamo e in provincia sono anche al collasso le pompe funebri, parlano di 10 chiamate all'ora. Però secondo Paola Pedrini, segretaria per la Lombardia della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale e segretaria dell'Ordine dei Medici della stessa città di Bergamo, i dati a Bergamo e nella provincia sono sottostimati. Allora saluto la dottoressa Paola Pedrini, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Quindi dice che addirittura la situazione sarebbe ancora più seria, almeno a livello di numero di contagiati, dottoressa Pedrini. Sì, sì. È quello che vediamo tutti i giorni noi come medici di famiglia. Non possiamo avere la certezza perché i tamponi vengono fatti solo a pazienti molto gravi con insufficienza respiratoria che vengono ricoverati in ospedale. Quindi i numeri sono assolutamente sottostimati, indicativamente vanno moltiplicati almeno per 5, perché è quello che vediamo noi sul territorio con i nostri pazienti, anche i pazienti con polmonite bilaterale che vengono mantenuti al domicilio perché stabili, non hanno bisogno dell'ossigeno o di rianimazione e quindi vengono mantenuti al domicilio. Se non accedono all'ospedale non viene fatto il tampone. E che cosa si può fare, dottoressa Pedrini, per fare emergere questi casi? Si parla appunto di strutture ormai, non so se appunto usare questo termine, al collasso. Ho visto che in giornata il commissario all'emergenza della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha parlato di un ospedale da campo a Bergamo. Ci sono già medici militari nelle strutture ospedaliere periferiche proprio per dare un aiuto all'organizzazione di queste corona unit, che sono tutti i reparti che sono stati trasformati e dedicati al trattamento dei malati con coronavirus. Daranno una mano probabilmente anche sul territorio, però la situazione è molto, molto difficile davvero. E quindi, dottoressa Pedrini, a parte la sua giusta denuncia così importante, qual è il suo appello, quindi, una volta denunciata questa situazione? Il mio appello innanzitutto è di non sottovalutare la situazione, soprattutto per le altre regioni d'Italia che non hanno i numeri che ci sono in Lombardia e soprattutto i numeri che ci sono a Bergamo, quindi assolutamente mantenere l'isolamento, rimanere a casa e limitare il più possibile i contatti con le altre persone. Questa è la fase fondamentale. Dopodiché bisogna assolutamente aiutare i medici del territorio, che sono la prima frontiera, proprio il filtro per l'ospedale. Noi vediamo tutti i pazienti prima che vadano in ospedale, quindi se molliamo noi, gli ospedali vengono letteralmente travolti. Certo. Dobbiamo essere dotati assolutamente dei dispositivi di protezione individuale per non ammalarci noi e per non diffondere il contagio verso tutti gli altri nostri pazienti. Come siete messi attualmente, dottoressa Pedrini, dal punto di vista dei dispositivi di protezione per voi, prima di tutto, come diceva, per voi medici? Siamo messi ancora male. Sono state distribuite dalle ATS, quindi le nostre ASLA, solo alcune mascherine chirurgiche monouso e alcuni guanti, mentre il kit completo di protezione, avete visto su tutte le televisioni e telegiornali, è una tuta completa, quantomeno dei sovracamici, degli occhiali o una maschera facciale, mascherine sia chirurgiche che quelle con filtro e sovrascarpe. Quindi di tutto ciò non abbiamo visto ancora niente. Solo alcuni di noi sono riusciti a comprarli in autonomia prima che venisse bloccato tutto e che ci fosse esaurita tutte le scorte a livello commerciale. Ora gli ordini possibili sono solo di ordini di grandezza di 100.000-200.000 pezzi, quindi capite che per un singolo medico è anche difficile. Le scorte che noi abbiamo, che chi è riuscito a comprare ha, sono comunque in esaurimento. Mi perdoni, dottoressa Pedrini, c'è il ministro Speranza che sta parlando sulla 7, vediamo se dice qualcosa di importante. Quello che è avvenuto in questa settimana è che larghissima parte dei paesi europei ha incrociato le nostre stesse vicende. Quello che sembrava essere un caso italiano è diventato un caso europeo, e quasi tutti i paesi europei, almeno quelli più importanti, hanno preso a modello le nostre misure. Dottoressa Pedrini, a proposito di paesi europei, vedo poco fa questo aggiornamento dall'ANSA: la Francia invia 1 milione di mascherine all'Italia, e poi oggi il ministro degli esteri Di Maio ha detto che partirà un altro volo cargo per la Cina che porterà in Italia altri 100 ventilatori polmonari, almeno altri 2 milioni di mascherine, e tra l'altro dice 10 tonnellate di presidi medici. Benissimo. Vediamo, di promesse ne abbiamo sentite tante in queste settimane, perciò finché non vediamo non ci crediamo più. Tocca fare i San Tommasi, insomma, giustamente, sì, perché esatto, la situazione esatto. È veramente tesissima, e anzi la ringrazio della disponibilità, insomma, che siete in prima linea costantemente. Immagino, sì, lei è stanca, dottoressa Pedrini? Abbastanza, sì. Senta, sì. Però le voglio anche far sentire, forse lo conosce già, l'avvocato Giovanni Pisacane. Buonasera, avvocato. Buonasera, buonasera. Che è praticamente il titolare di uno studio di legale tributario, che è anche in partnership con uno studio di avvocati cinesi, se non sbaglio, poi mi corregga. Noi siamo una struttura cinese, siamo uno studio legale tributario che ha sede a Shanghai e poi abbiamo una sede qui a Bergamo, dove mi trovo in questo momento. E avete deciso di mettere in pratica un ponte solidale tra Bergamo e la Cina, no? Avvocato Pisacane. Sì, esattamente, noi veniamo dall'esperienza cinese drammatica, già vissuta diciamo sulla nostra pelle, quindi abbiamo fatto già esperienza, eravamo consci di quelli che potevano essere i pericoli, e quindi abbiamo immediatamente trasformato lo studio in un centro di approvvigionamento per la città, per il territorio e anche per la regione. Quindi lo sforzo che stiamo facendo in questo momento è utilizzare tutti i nostri canali sulla Cina per consentire alla città, all'ospedale di Bergamo, ma anche ad altri ospedali con cui stiamo cooperando, e al comune, i dispositivi di cui parlava la dottoressa Pedrini qualche minuto fa. Sono sì le mascherine, ma sono anche gli occhiali, le tute di protezione, i camici impermeabili, i guanti, quindi c'è tanto da fare. E noi cerchiamo di essere in prima linea attraverso tutti i canali che negli anni abbiamo creato sul territorio cinese. E Pisacane, con avvocato, con quale tempistica questo materiale potrebbe arrivare a Bergamo? Allora, noi abbiamo già incominciato a distribuire degli aiuti all'ospedale che non comprendono delle mascherine, altri tipi di dispositivi medici. Già nei giorni scorsi abbiamo fornito ai volontari e alla polizia locale del materiale, anche oggi. Per quanto riguarda le mascherine, allora, sono in arrivo circa un primo carico di 10.720 mascherine, tra cui chirurgiche PP e FFP1, che sono in volo in questo momento. Una parte a Francoforte arriverà presto a Bergamo. Abbiamo tutti i problemi di logistica e anche doganali da dover risolvere, ovviamente. Poi abbiamo un altro carico che è parte della donazione fatta dal Rotary, con cui sto cooperando, ed è con grandissimo slancio, uno sforzo fortissimo nel reperimento dei materiali che arriveranno nei prossimi giorni. Anche queste sono state già sdoganate in Cina, cioè hanno passato il primo vaglio della dogana cinese, sono in transito, e arriveranno anche donazioni che abbiamo raccolto sul territorio cinese, sono circa altre 10.000 mascherine. Io conto, perché altrimenti, voglio dire, il territorio veramente comincia ad andare in difficoltà, conto di far arrivare qui su Bergamo 20-30.000 dispositivi, tra quelle chirurgiche, quelle diciamo l'FFP1, 2 e anche 3. Siamo riusciti a trovare anche quelle FFP3 che sono diventate, non si sa perché, introvabili sul mercato. Ha sentito, dottoressa Pedrini? È un primo passo? Ho sentito, sì, assolutamente un primo passo, e apprezzo veramente l'impegno dell'avvocato e lo ringrazio. Bisogna ricordarsi però del territorio, perché poi si tende a dare tutto all'ospedale, che è fondamentale assolutamente, ma anche il territorio è importante. È chiaro, avvocato Pisacane? Sì, ma lo sappiamo bene, infatti alcune sono destinate, non sono tutte destinate all'ospedale. Abbiamo chiesto al comune e alla polizia locale di anche darci una mano a coordinare. Noi abbiamo il compito di far arrivare qui i dispositivi, di fare in modo che si abbiano i fondi, io ho messo, diciamo, a disposizione per quello che potevo anche la mia struttura per anticipare fondi e consentire l'arrivo prima possibile, perché è questione di tempo. Adesso è il tempo che è il nostro vero nemico. Diciamo, le donazioni sono arrivate, stanno arrivando, ma il tempo è tiranno, quindi bisogna fare presto. E questi sono tra gli italiani migliori: l'avvocato Giovanni Pisacane e la dottoressa Paola Pedrini, segretaria regionale per la Lombardia della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Grazie a entrambi, grazie dottoressa mille, Pedrini, grazie avvocato Pisacane. Grazie, buon lavoro a entrambi. Adesso ci fermiamo brevemente per, lo sapete, una pausa di riflessione e di respiro. Vedo diversi vostri messaggi molto, molto carini, incoraggianti, e qualcuno che suggerisce ancora delle canzoni. Continuate a cantare dai balconi, poi ogni tanto anche qui effetto nota, eccezionalmente un po' di musica. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto notte e soprattutto se siete a casa, siete al posto giusto, nel momento giusto, Roberta Giordano sempre con voi, con il programma vostro imprescindibile appuntamento con la trasmissione antivirus, perché più lo conoscete e meglio lo evitate. Soltanto giustificate naturalmente, ci sono delle guardie giurate che scrivono che ascoltano Effetto notte con la cuffietta, c'è chi fa dei magari appunto personale sanitario in un momento di pausa che ascolta dal lavoro o altri tipi di lavoro, perché naturalmente c'è chi continua a dover andare sul posto di lavoro. 349-238-6666 è il numero per mandare messaggi o WhatsApp ai vostri commenti, oppure scriveteli comodamente sulla pagina Facebook. Scrive per esempio un avvocato, vediamo se ritrovo il messaggio, voleva chiarire il dubbio di una ascoltatrice di poco fa, Carla se non sbaglio. Lui si chiama Cesare, dice: sono un avvocato di Milano, a proposito dell'autocertificazione, un avvocato civilista, volevo segnalare che quanto detto dall'ascoltatrice poco fa in relazione alla nuova autodichiarazione, il cui testo è scaricabile dal Ministero dell'Interno, il suo dubbio è corretto. Dice: si chiede infatti di dichiarare di non essere sottoposti alla misura della quarantena, questo è, ma anche, aggiunge questo avvocato, di non essere risultati positivi al virus. Diciamo che la formulazione non è propriamente corretta, sarebbe più giusto dire di essere stati sottoposti al test e di non essere risultati positivi, perché questo era il dubbio che si poneva l'ascoltatrice. Io posso dire di non essere in quarantena, ma come faccio a dire di non essere risultata positiva se non ho fatto il test? Dice l'avvocato che risponde: non possiamo infatti sapere senza il test se siamo portatori asintomatici dello stesso virus. Il test andrebbe corretto, dice Cesare. Poi vedremo se questa segnalazione verrà presa in considerazione. Mentre, dice un altro ascoltatore, mi è parzialmente sfuggita la notizia dei prodotti tipici di piccoli negozi non da ora in poi vendibili nei supermercati, per non metterli in difficoltà. Vi dicevo che molte catene, forse man mano tutte, di supermercati adesso stanno mettendo dei cartelli nei corridoi dove ci sono degli articoli, per esempio articoli da cartoleria, oppure dei casalinghi, o anche della biancheria intima, perché questo è un modo per non fare della concorrenza sleale ai negozi di questo tipo di articoli, che sono costretti a essere chiusi, mentre per esempio per gli alimentari, come dicevamo, ci sono anche i negozi di alimentari di quartiere che rimangono aperte e che, dicevo, hanno avuto una grossa crescita di spesa in questo periodo, di fatturato, come vogliamo dire, di guadagni, perché giustamente c'è stato, visto il momento, anche un riscatto di questi negozi di quartiere. Bene, dopodiché a questo punto possiamo passare al prossimo tema e al prossimo ospite. Parliamo di Europa. Saluto Matteo Villa, analista dell'ISPI per l'area Europa, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Bentornato Matteo Villa. Grazie, buonasera a voi. Perché parliamo della decisione presa in serata dall'Unione Europea, anche se era già stata anticipata ieri, secondo che è stata discussa poi oggi in un vertice straordinario. Pardon Matteo Villa, vedo Ilaria Capua, scienziata dagli Stati Uniti, italiana, vediamo che cosa dice sulla 7. Ha cominciato a domesticare il bovino, questo virus si è avvicinato all'uomo ed è diventato il virus del morbillo. Sta facendo una storia per un po' lunga. Questa ecco, operazione, virus del morbillo che viene dai bovini. Ci sono volute migliaia di anni e questo virus si è spostato a piedi, si è spostati a piedi e ancora adesso è un virus molto particolare. Noi stiamo, secondo me, assistendo a un fenomeno molto simile. Allora, un virus presente in una popolazione di animali, per condizioni che noi esseri umani abbiamo creato con questi mercati di animali vivi circondati da delle megalopoli e con il traffico aereo, le movimentazioni di persone che sono quelle che sono, abbiamo permesso a questo virus, il quale in realtà voleva entrare in una popolazione, in un villaggio, non in una megalopoli, in un villaggio, e lì si sarebbe verosimilmente estinto. Invece è entrato in una megalopoli. Noi abbiamo caricato gli aerei di passeggeri infetti e abbiamo di fatto accelerato un fenomeno che è un fenomeno molto raro e che ha bisogno dei suoi tempi. Quindi, mi perdoni, per professoressa, Matteo Villa ha sentito anche interessante, no, questa spiegazione della scienziata Ilaria Capua, che parla degli Stati Uniti, che è stata anche più volte qui a Effetto Notte, di come a un certo punto ce lo siamo quasi voluto questo virus a livello di popolazione mondiale, di abitudini, eccetera. Però adesso restringiamoci all'Unione Europea, appunto, perché dicevo che è stata presa una decisione importante, discussa oggi in un vertice straordinario da parte dei 27 leader dei 27 paesi, in videoconferenza è stato deciso di chiudere le frontiere dell'Europa all'esterno, quindi con libera circolazione che dovrebbe continuare all'interno, anche se mi sembra di capire, abbiamo visto in questi giorni, che vari paesi europei vanno in ordine sparso. Villa. Sì, esatto, perché diceva benissimo Capo, effettivamente l'abbiamo accelerato questo virus permettendoci degli spostamenti che in altre epoche non esistevano, per esempio quelli via aerea, però ormai il virus è qui. E infatti può fare quasi specie pensare che ci chiudiamo all'interno dell'Unione Europea come se volessimo evitare la diffusione di un virus che ormai è qua tra noi, addirittura il numero di morti sta sorpassando e ha sorpassato ormai anche quelle viste in Cina qua in Europa. Quindi se è già qui, perché ci chiudiamo? Dovremmo forse fare un passo indietro e vedere i motivi. Il motivo è quello che hai appena detto, cioè il tentativo dell'Unione Europea, delle istituzioni europee, è quello di convincere gli stati membri che invece hanno iniziato a chiudere le loro frontiere interne, cioè le frontiere con gli altri paesi europei, per esempio l'Austria, l'Ungheria, eccetera, a rilassare queste restrizioni, dicendo va bene, noi ci chiudiamo all'interno dell'Europa, però voi almeno rilassate queste restrizioni, non fate crollare i principi del mercato unico che includono anche la libera circolazione delle persone. Perché infatti in questo modo mi pare già 7 paesi europei hanno notificato la sospensione di Schengen, che è appunto l'accordo per la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione Europea, no? Quindi già 7 paesi che hanno preso queste decisioni, diventa davvero una questione, si chiede da più tempo di coordinare l'azione sia sanitaria sia di misure economiche sia di altro tipo a livello europeo. Anche il Presidente del Consiglio Conte l'ha chiesto più volte, mi sembra che in parte ci stiamo riuscendo e in parte no, se continuano a esserci paesi che decidono per cavoli loro, no, Villa? Sì, esatto, e tra l'altro sono restrizioni ben più forti di quelle che avevano preso dei paesi dal 2015, quando si parlava appunto di chiudere, di sospendere Schengen, ma perché reintroducevamo i controlli alle frontiere per, diciamo, controllare le migrazioni, mettiamola così. Dal 2015 di fatto la Germania e molti altri paesi, 6 paesi europei, avevano sospeso Schengen, ma erano misure molto blande, permettevano ancora il passaggio di parecchie cose, ma soprattutto delle persone. E invece appunto 7 paesi, inclusa la Germania in alcune frontiere, l'Austria, l'Ungheria, la Repubblica Ceca, la Svezia, hanno deciso di chiudere proprio del tutto il passaggio delle persone. Questo chiaramente implica, cioè, ha dei costi sia dal punto di vista frontaliere delle persone che si spostavano, sia un po' anche nella percezione simbolica dell'Unione Europea, che di fatto della libertà di circolazione faceva il principio base, che adesso invece si trincera all'interno degli stati nazionali. Quindi questo che cosa, intanto che cosa comporta? Quindi che da fuori dell'Unione Europea non può venire nessuno, da paesi che non facciano parte dell'Unione Europea, no? E dentro l'Unione Europea questo che cosa può comportare secondo lei, Matteo Villa? Da fuori dell'Unione Europea possono solo tornare gli europei che sono fuori, infatti. Di fatto, e forse adesso vedremo, perché le misure sono nazionali, di fatto l'Unione Europea su questo paradossalmente non ha nessun potere, quindi deve chiedere agli altri 27 paesi di adottare misure simili, di coordinarsi, e vedremo cosa sceglierà l'Italia e cosa sceglieranno gli altri paesi. Però il problema all'interno dell'Unione Europea è che di fatto le frontiere sono chiuse, e addirittura lì dove le frontiere non sono chiuse, vi faccio l'esempio del confine tra la Germania e la Polonia, si accumulano file di decine di chilometri di persone che vorrebbero entrare perché i controlli sono veramente strettissimi. Quindi immaginate, sia le persone sia poi chi vuole entrare col trasporto su gomma, di fatto fa sì che tutto venga rallentato, quindi anche le merci, i servizi, tutto ciò che dovrebbe passare dalla frontiera è quasi impossibilitato passare. Quindi il rischio per l'Unione Europea è che si metta in discussione anche il mercato unico, e quindi tutto ciò che abbiamo costruito negli anni con l'inizio delle restrizioni, se poi proseguono per tanto tempo, rischia di crollare anche tutte le economie transfrontaliere che abbiamo creato. Quindi sarebbe un disastro, insomma, una decisione che, se non è calibrata nel modo giusto e presa tutti nello stesso modo, potrebbe portare ulteriori problemi economici, che già l'impatto economico, abbiamo detto, del coronavirus è enorme, no? Nel nostro paese, ma insomma man mano in tutto il mondo, Villa. Sì, può avere un impatto significativo, lo dicevamo già quando si sospendevano le frontiere, appunto soltanto per fare maggiori controlli, quando si vedevano le file al Brennero. Ecco, immaginiamocelo moltiplicato, perché ovviamente i controlli saranno molto più serrati, e appunto il rischio è proprio questo, che anche là dove i rischi sono molto bassi, nel senso che sappiamo che il virus decade rapidamente sulle superfici, basta aspettare 3 giorni più o meno, non c'è più, la sua carica virale è quasi finita, però di fatto, quindi nel trasporto di merci eccetera, se noi ci trinceriamo e chiudiamo anche laddove sembra che tutto sia a posto, l'impatto economico sicuramente potrà essere forte. Si potrà stimare, si stimava nella chiusura delle frontiere Schengen in pochi punti, diciamo 1,0 del PIL, se sarà più forte di 10 volte, il rischio che sia un impatto bello forte sul mercato unico. Speriamo di essere in buone mani con decisioni ragionevoli e razionali. Grazie Matteo Villa dell'ISPI, analista dell'ISPI. Grazie, grazie, buona continuazione. C'è la viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E ci sono ancora tanti ascoltatrici e ascoltatori che, insomma, parlano delle loro difficoltà di dell'autodichiarazione, della clausura forzata, eccetera. Io dico, ogni tanto cerchiamo di resistere, anche e soprattutto solo per noi e per gli altri, anche per le persone che non ce l'hanno fatta, non ce la fanno e non ce la faranno, ma soprattutto cerchiamo di andare avanti, come quando si fa una maratona oppure si scala una montagna o con una bici si è in salita, bisogna sempre mantenere il senso della meta. È soltanto mantenendo il senso della meta che si arriva al traguardo. Adesso continuiamo a parlare di Europa e ci colleghiamo con la Francia, con Danilo Ceccarelli. Ciao Danilo. Buonasera a voi. Allora, ieri avevo fatto sentire una parte del discorso solenne del presidente francese Macron alla Nazione, in cui ha ripetuto più volte: siamo in guerra. Però, dicevo, siccome questo discorso l'ha fatto alle 20 di ieri, aveva annunciato che da mezzogiorno di oggi in Francia ci sarebbero state le misure restrittive tipo quelle dell'Italia, io avevo pensato ci sarebbe stato un fuggi-fuggi magari dalle città verso le seconde case o verso altri luoghi, come è stato da noi, da nord verso sud per esempio, oppure di nuovo l'assalto ai supermercati. Come si è comportata la Francia in tutto questo, Danilo? Beh, questa mattina abbiamo visto che c'è stato un vero e proprio assalto al treno qui a Parigi, in particolare alla stazione di Montparnasse, ma in realtà molte persone già avevano cominciato ieri sera a lasciare la capitale via treno, intanto che le ferrovie francesi, visto il gran numero di passeggeri, hanno deciso di non controllare i biglietti e lasciare andare le persone. Quindi era voluta anche questa cosa da parte di Macron? Cioè, poteva immaginare che succedesse questo? Beh sì, era facilmente prevedibile. Ci sono stati dei momenti, ecco, di tensione vista la carca, che sono comunque finiti allo scoccare di mezzogiorno, appunto l'ora X a partire dalla quale i francesi sono rientrati praticamente tutti a casa in modo molto diligente, potremmo dire. Parigi si è letteralmente svuotata, strade vuote, serrande abbassate, pochissime persone in giro, devo dire, molte però ancora senza mascherina. È uno strumento che a quanto pare ancora non è stato ben integrato dai parigini. Danilo, tra l'altro mi sembra che Parigi sia una delle città con maggior densità urbana al mondo. Sì, ha una densità con appartamenti piccoli, per cui tanti magari hanno paura di essere rinchiusi. Esattamente, i classici studio parigini diventati uno stereotipo un po' nell'immaginario della città. Sì, è una delle città con una densità di popolazione più alta d'Europa, quindi questo potrebbe portare anche una maggiore propagazione del virus. Sì, ci sono timori anche sotto questo punto di vista. Intanto ricordo velocemente che i casi sono arrivati ormai a 7.730, 1.097 in sole 24 ore, mentre i decessi sono passati a 175, 27 in più rispetto a ieri, quindi il virus ormai sta galoppando su tutto il territorio e i francesi devono rimanere confinati in casa a seguire l'esempio degli italiani. Sii prudente anche tu, Danilo. Aggiungo che il collegamento ferroviario con TGV tra Milano e Parigi è sospeso da domani fino al 18 marzo. Anche tu hai cantato la Marsigliese dalle finestre, Danilo? Il mio appartamento dà su un piccolo cortile, quindi non mi avrebbe sentito nessuno, però è stato... Se sussurri l'inno italiano, però, visto che nel cortile nessuno ti fa niente, puoi cantare se vuoi. Va bene? Grazie Danilo Ceccarelli, stai attento. Ciao da Parigi, un abbraccio. Ciao Danilo. E adesso dalla Francia agli Stati Uniti raggiungiamo Riccardo Barla. Ma ciao Riccardo. Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, ricordo che almeno dai dati ufficiali adesso ci sarebbero oltre 5.000 casi negli Stati Uniti e 100 morti, però mi devi spiegare sinteticamente, Riccardo, come è stato possibile, conoscendo Trump e conoscendo per esempio anche Boris Johnson, che mi sembrano i gemelli separati alla nascita, come Trump abbia potuto passare da giorni fa in cui diceva che l'OMS, lo ripeto, dava dati falsi, che era un complotto nei suoi confronti, che in realtà gli Stati Uniti stavano benissimo, che c'erano pochissimi casi, è passato da ieri sera, poco prima della chiusura di Effetto Notte, a dire l'epidemia negli Stati Uniti è fuori controllo e a stanziare adesso diversi miliardi, vedo. Molti miliardi. Allora, la cosa curiosa di questi giorni, mi ha colpito un vecchio giornalista che era in Russia negli anni Ottanta, adesso in pensione, fa il commentatore per il New York Times, e ha scritto un ricordo di quei giorni di Chernobyl, quando ci fu l'incidente alla centrale nucleare. Nei giorni successivi all'incidente il governo sovietico negava la gravità del fatto, tant'è che poi è stato travolto da questa cosa qui, poi ci fu la storia di Gorbaciov, la preistorica, insomma. E allora questo giornalista ha parlato di Trump, ha scritto un commento che ha titolato la Chernobyl di Trump, perché quello che ha fatto fino all'altro ieri Trump è stato di dire va tutto bene, siamo i più bravi del mondo, siamo i migliori del mondo, quando i test non ci sono, l'agenzia che deve seguire le malattie infettive il venerdì ha chiuso gli uffici e è andato a casa, insomma fino a qualche giorno fa questo paese sembrava davvero impreparato. L'atteggiamento è cambiato nelle ultime ore. Anche perché, scusa, Trump poco fa ha anche detto non vogliamo trovarci nella situazione dell'Italia. Lo poteva sapere molto prima, no? Improvvisamente scopre questa cosa. Ma devo dire, allora, io da italiano ho la sensazione anche un po' fastidiosa, perché quando è capitato di prendere l'ascensore e di sentirmi un po' guardato come è successo da noi con qualche cinese, oppure vedere gli scaffali vuoti in alcuni supermercati americani dove i prodotti col tricolore italiano non venivano acquistati, e quasi che ci sia una scelta, come dire, di classe razzista contro l'Italia, che siamo visti in questo modo in questo momento. La sensazione invece è che in Italia stiamo facendo bene con la tragedia in questo momento, e l'Italia anche in Europa Certo, è l'unico paese in Europa che ha preso le cose seriamente. E il dramma, se vogliamo, visto da qui, è che l'Europa non ha fatto allo stesso momento quello che ha fatto l'Italia, quindi adesso succede in Francia, succederà negli altri paesi, in Gran Bretagna, e succederà, ahimè, anche qua. E, a New York, per dire, qui in Jersey City, New Jersey, lo stato di fronte a Manhattan, da ieri c'è il coprifuoco, il governatore ha dichiarato il coprifuoco, quindi dalle 8 di mattina, di sera alle 5 di mattina non si può uscire, se non motivando quando la polizia ti ferma. A New York il consigliere comunale del comune di New York ha già proposto di fare una quarantena per tutta la città, le scuole sono chiuse i musei, chiusi i cinema, e il governatore non vuole arrivare a questa misura così drastica, però si parla già di una crisi per la città che è semivuota, che non è mai stata così a rischio dai tempi della Grande Depressione, nella crisi del 1929, anni 30, e quindi certo ci sono questi aiuti miliardari oggi. Parla di mille miliardi, no? Valuta un piano da mille miliardi, probabilmente. La Casa Bianca. Sono un po' di più, ma insomma, la cosa è un'altra cosa interessante di queste ore proprio in sintesi. Qui succede che quando c'è qualsiasi cosa, la protezione civile ti manda sul messaggio un alert, per cui ti dice attento che dove sei tu in questo momento ti arriva il temporale, o attento che hanno rapito quel bambino nel parco con la mamma e c'è uno con una macchina grigia. Vogliono fare la stessa cosa per controllare le persone che vanno in giro. Ecco. E quindi era il messaggio, era il messaggio anche di un ascoltatore o ascoltatrice che suggeriva questa cosa. Riccardo Barlan, ti devo salutare, ma attento sul telefonino, ti arriva un mio abbraccio, attento a questo alert, va bene? Grazie per l'abbraccio virtuale, lo rimando da oltreoceano a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie Riccardo Barlam. Dario Ricci, Dario, parliamo delle decisioni che lo sport di giorno in giorno, pochino per volta, lento sta prendendo in tutto il mondo. Dario. Eccoci qua, ben trovata Roberta. Beh, Euro 2020 è diventato Euro 2021, quindi questo è il primo dato acquisito, tutto rinviato di un anno. L'UEFA, per paradosso, ci ha voluto il coronavirus, ai noi, per unire un calcio europeo troppo spesso diviso, invece tutti d'accordo nel spostare gli europei al prossimo anno. Si partirà, lo speriamo davvero, l'11 giugno del 2021, sempre da Roma, all'estate, appena sarà possibile tornare a giocare, sperando che lo sia il prima possibile, servirà per completare i campionati nazionali e le coppe internazionali, l'Europa League e la Champions League, auspicabilmente entro il 30 giugno, con tutti gli slot possibili. Che cosa vuol dire? Ha detto l'UEFA, dice organizzatevi, ma per fare le partite, per esempio, potremo vedere la Champions League anche nel weekend, speriamo, questo lo speriamo sempre, perché speriamo che si torni alla normalità. Per cui sarebbe anche una novità. Ci saranno due commissioni, intanto una che seguirà passo passo lo sviluppo dei calendari e un'altra finanziaria, perché l'UEFA ha detto è una situazione talmente eccezionale che tutte le componenti, quindi anche i calciatori, dovranno contribuire a mitigarne gli effetti economici. Si parla comunque di perdite milionarie. Va invece avanti la roadmap del CIO verso Tokyo 2020. Il CIO ha fatto un vertice con tutte le componenti coinvolte, un lungo comunicato in cui in filigrana si legge comunque chiaramente la preoccupazione per la situazione attuale, ma al momento, a 5 mesi dai giochi, che lo ricordiamo dovrebbero scattare il 24 luglio prossimo, il CIO continua sulla sua strada, monitorando il tutto con una task force in cui è anche compresa l'Organizzazione Mondiale per la Sanità. Quindi diciamo, il CIO ha detto anche, vado a chiudere, che è disposto anche un po' a rivedere i criteri di qualificazione per gli atleti che ancora non hanno avuto il passo olimpico e che si sono visti e si stanno vedendo cancellare molti degli appuntamenti di qualificazione previsti dal calendario, ma per il momento si va avanti verso quel 24 luglio con una navigazione, con una rotta definita, ma una navigazione a vista. Chiaramente a vista. Chiaramente aprile e maggio saranno poi i mesi chiave per vedere come si svilupperà la pandemia a livello globale. Chiaro, grazie Dario Ricci. Aggiungo grazie che 10 calciatrici della Juventus Women, tutte atlete anche della nazionale italiana, sono in isolamento volontario domiciliare perché potrebbero in Portogallo essere venute a contatto con qualcuno positivo al Covid-19. Ci lasciamo, vi aggiorno brevemente alle 22, torno ratta come la folgore.